Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Benvenuti, apriamo lo spazio dedicato alle notizie di salute insieme al professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Professor Rezza, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, partiamo dalla notizia secondo la quale il nuovo ceppo del virus isolato a Milano, sia domestico, non abbia cioè alcun che da spartire con quello cinese. Insomma, un virus padano. È così? No, non è assolutamente vero. Questo è un virus che proviene dalla Cina. È un virus che fuoriuscendo dal pipistrello, entrando nell'uomo, ha dato prima un focolaio a Wuhan, nell'Hubei, e dopo altri focolai in Giappone, in Corea del Sud, in Iran in modo particolare. Adesso è arrivato anche da noi, è un virus lombardo, nel senso che si sta trasmettendo da persona a persona, ma non è assolutamente un virus che ha avuto origine in quella zona del Lodigiano, è arrivato dalla Cina come tutti gli altri ceppi virali che hanno fatto il giro del mondo. Professor Rezza, il numero dei contagi è in aumento. A una settimana dall'adozione delle misure restrittive, possiamo fare un primo bilancio? Sono state utili? Ma non possiamo ancora fare un primo bilancio perché il tempo di incubazione medio di questa malattia è di circa 5-6 giorni e comunque sia può arrivare fino a 12 giorni. Quindi prima di vedere un effetto bisogna aspettare almeno 2 o 3 settimane. È per questo che noi ci attendevamo che la curva epidemica avrebbe continuato a salire e lo avrebbe fatto anche piuttosto velocemente. Naturalmente speriamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di cominciare a vedere un primo effetto delle misure di distanziamento. Speriamo che avvenga presto. Professor Rezza, il clima può avere un impatto sull'evoluzione dei contagi? Guardi, per quanto sappiamo dagli altri coronavirus, in genere in primavera continuano ancora a diffondersi. Naturalmente, come tutti i virus respiratori, nel periodo estivo tende a diminuire la velocità di circolazione. Questo è dovuto non tanto all'azione del caldo in sé, quanto al fatto che quel distanziamento sociale che adesso stiamo cercando di ottenere in maniera artificiosa durante l'estate avviene per via naturale, perché le scuole chiudono, gli uffici in genere pure, e la gente se ne va al mare, magari in montagna, vive di più all'aria aperta, meno in luoghi più si sono raffollati. Nel frattempo manteniamo la distanza sociale, 1,5 metri, professor Rezza? Assolutamente, in questo periodo ci dobbiamo abituare tutti ad essere un po' più asociali, a mantenere la distanza di sicurezza, 1,5 metri almeno. Grazie professor Rezza per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. La programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in una nuova diretta Facebook insieme al professor Luca Sconfienza, parliamo di cervicale. A tra poco per rispondere a tutte le vostre domande. Buona giornata.